Per tutti i primi decenni, chi visita anche oggi le catacombe, si ha la fortuna, diciamo, di trovarsi una iscrizione di committenza cristiana dei primi decenni del III secolo. Ecco, non troverai iscrizioni dove ci sono lodi del defunto, dove si è detto, si dice quali siano stati i suoi meriti in vita, che cosa abbia fatto e così via, come le grandi iscrizioni normalmente di committenza romana pagana. Qui invece normalmente troviamo solo il nome personale, in modo che il defunto sia ricordato nella pura individualità, insomma, come membro della comunità. Ecco, questa ideologia è un'ideologia davvero che ha teso a compattare tutte le anime del cristianesimo a Roma, che soprattutto si manifesta nei primi decenni del III secolo e che uno studioso contemporaneo, un mio collega, insomma, Carlo Verletti, ha definito l'ideologia dell'Arca di Noè. Per quale ragione? Perché uno di questi vescovi che ha fatto davvero la svolta decisiva, prima abbiamo detto Vittore, vissuto intorno al 180-190, poi c'è stato Zefirino, che ha avuto un episcopato significativamente lungo fino al 217, e poi c'è stato Callisto, questo vescovo che noi ricordiamo proprio perché una delle catacombe ha il suo nome, la catacomba principale dei cristiani a Roma in questo periodo. Ecco, questo personaggio, a quello che ci risulta, ha incarnato più e meglio di tutti gli altri lo sforzo che durava ormai da vari decenni di unire tante anime così diverse in un solo gruppo. Io ho descritto fino adesso quello che è successo per le forme di sepoltura, ma Callisto poi si occupa anche di un altro problema, il problema penitenziale, il problema cioè della remissione dei peccati. Anche questo praticamente possiamo dire che è una questione che ha interessato ovviamente non solo Roma, ma tutte le realtà cristiane sin dalle origini, perché la Chiesa, almeno in linea di principio, era abituata a rimettere i peccati del soggetto nell'atto di amministrargli il battesimo. E in linea di principio non avrebbe dovuto più incorrere in peccati almeno gravi che comportassero l'esclusione della comunità. E poi questo di fatto succedeva, era successo. E allora si era posto il problema di se e come riammettere questi membri all'interno del gruppo ecclesiale. Callisto, agli inizi del III secolo, anche su questo si rivela estremamente determinato, coraggioso e determinato. Utilizza alcuni passi delle scritture, uno di Paolo, che dice: chi sei tu per giudicare il servo di un altro? E poi un altro passo importante è proprio quello dell'Arca di Noè, dove entrano animali puri e impuri. E la Chiesa costituisce quest'arca, li prende tutti. Li accoglie tutti, li accoglie nella vita per portarli, diciamo, in porto e, come dicevo, materialmente si preoccupa anche di accoglierli in morte, in attesa della risurrezione. Ecco, è in queste dinamiche così faticose e complesse che noi assistiamo non tanto a queste dinamiche ci permettono non tanto di capire com'è che nel cristianesimo di questo periodo in vari centri è stata adottata questa forma di governo, ma ci permettono di vedere almeno gli sviluppi che si è avuto, come gradualmente si è arrivato. Ripeto, si sono fatte varie ipotesi. Una di queste era che un'organizzazione di questo genere, molto simile a quella delle scuole di filosofia che c'erano nel secondo secolo, probabilmente aiutava davvero a gestire meglio la comunità, con tutte le sue complessità, con tutte le sue anime diverse. Ma ripeto, è una delle tante ipotesi che sono state fatte. E infine vorrei, diciamo, toccare ancora un ultimo punto per dire come questo passaggio dalla pluralità a un tentativo di unità poi si sia anche concretamente rivolto ai bisogni più comuni e pratici. Noi, i primi dati sicuri, noi non sappiamo esattamente quanti fossero i membri della comunità, i cristiani a Roma in questo periodo, però una notizia esattamente della metà del terzo secolo, ancora una volta fornitaci grazie a Eusebio, lo storico di Cesarea, ci dice che a Roma c'era il vescovo, 46 presbiteri, 7 diaconi e poi una cinquantina tra ostiari, suddiaconi ed esorcisti. Quindi ci dice che c'era un corpo del clero significativo e poi aggiunge che grazie alla comunità venivano quotidianamente assistiti 1500 tra poveri e vedove. Questo è il primo grande dato che noi abbiamo della storia della Chiesa di Roma, ma anche in generale, perché per questo periodo noi davvero, con tutte le ipotesi che sono state fatte, dati realmente numerici sulla consistenza dei cristiani non li conosciamo. Alla metà del terzo secolo, dopo tutto questo cammino che c'era stato, il vescovo era a capo di 46 presbiteri, poi c'erano i diaconi, in numero di 7, che si occupavano, diciamo, di tutta l'area della città, e poi c'era un bacino di 50-52 persone, dai quali si attingeva per farne futuri presbiteri, oppure un piccolo gruppo per, diciamo così, ricostituire il collegio dei diaconi. Un'altra considerazione vorrei fare sempre sulla struttura della comunità di questo periodo. Prima facevo una riflessione di carattere numerico, no? Questo è l'unico dato certo che abbiamo. Però c'è un punto che si sta concretizzando negli ultimi anni, grazie agli studi di Fiocchi di Colai, Jean Guyon, di altri studiosi, di altri archeologi. Cioè, loro sono stati così bravi nel, diciamo, distinguere cronologicamente le varie aree dei primi centri di sepoltura cristiani attorno alla città, no? Di quelli che noi chiamiamo catacombe, sono stati così bravi che noi oggi siamo numericamente, dal punto di vista numerico, in grado di dire quante persone erano sepolte nel cimitero di Callisto e quante negli altri di questi primi centri. Ecco, e dobbiamo dire che se ci fermiamo intorno alla metà, se ci fermiamo intorno alla metà del terzo secolo, grosso modo il numero delle persone sepolte grosso modo arriva grosso modo a 5.000. E quindi non parliamo di misure enormi come quelle che sono state fatte anche da qualche studioso che ipotizzava che, non so, i cristiani fossero 50.000 a Roma. Ecco, questi sono dati incontrollabili. Noi quello che possiamo controllare è che nelle catacombe di questo periodo il numero delle persone sepolte qui e là raggiunge varie centinaia e complessivamente considerate arriviamo a 4-5 mila, ma non a cifre, forse a qualcosa di più, ma certamente non molto di più. Questo, diciamo così, è il quadro che si doveva presentare intorno alla metà del secondo secolo nella capitale dell'impero. Ecco, c'è un aspetto, professor Castelli, che vorrei ancora mettere a fuoco con lei, facendo un passo indietro, cioè se noi parliamo di secondo secolo, stiamo parlando di un'epoca in cui i Vangeli c'erano già. Possiamo immaginare che gli apostoli si siano posti il problema di chi poteva presiedere la comunità dopo di loro. Questo passaggio che lei delineava tra un gruppo di presbiteri e un vescovo non può avere anche un collegamento col fatto che appunto i Vangeli in quello stesso arco di tempo sono stati scritti, diffusi e quindi hanno contribuito a creare un po' un collante, sia sul piano teologico, sia sul piano organizzativo. Una delle ipotesi che si è fatto per spiegare anche il passaggio dall'una all'altra forma di governo è che in questa successione di individui a capo di un gruppo, dal presunto fondatore della comunità, l'apostolo, al suo successore, si individuava meglio anche la linea di successione della tradizione apostolica. E in effetti è esattamente così, intorno alla metà del secondo secolo, le fonti che noi abbiamo ci dicono che c'era la preoccupazione di ricostituire questa linea di successione della tradizione dai primi apostoli a non un gruppo indistinto, ma a determinate figure che si erano passate una all'altra, diciamo, questa tradizione ricevuta. E quindi è possibile che anche il passaggio alla forma episcopale sia stato considerato come una maniera migliore, diciamo, di delineare, insomma, il percorso di questa tradizione e tutto sommato, insomma, di tenerla contenuta entro un ambito ben preciso, anche perché un altro dato interessante è che, soprattutto intorno alla metà del secondo secolo, altri rappresentanti di altre dottrine che fioriscono, no, nel primo cristianesimo, anche loro vantavano certe liste di personaggi fino agli apostoli, ma erano figure oscure. Il che cosa significa? Che, per esempio, quando noi ci occupiamo della lista dei successori di Pietro, no? Di quella che la tradizione successiva ci presenta come i vescovi della comunità, no? Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telesforo, Igino, Pio, Sotero, no? E così via fino a Callisto. Questi primi personaggi, quale ruolo effettivamente hanno avuto? Forse di presidente dell'assemblea dei presbiteri? È possibile, perché anche nel mondo giudaico c'era una figura presidente al collegio degli anziani, c'era l'archisinagogo, questo è senz'altro possibile. E si è scelto questa presidente, questa figura in certo qual modo per delineare una successione della tradizione. Quello che dicevo prima è che è ovvio che a questo, ecco, alla luce di quello che ho detto, anche la discussione sulla stessa parola di vescovo è importante fino a un certo punto, nel senso che se si accetta il discorso che facevo, che comunque c'era una figura presidente all'interno del collegio, che si sia chiamata vescovo o si sia chiamato in un altro modo, da questo punto di vista non importa tanto. Importa quello che ci sta più a cuore e vedere come queste figure, grosso modo, hanno acquisito maggiore consistenza di potere fino ad avere ruoli e funzioni ben stabilite, diciamo così, potere pieno nel governo della comunità. Per ciò che concerne i Vangeli, invece, la questione è molto delicata. Anzitutto, noi Vangeli, grosso modo, si ritiene che essi siano stati scritti tra il 70, almeno Marco, e la fine del primo secolo, Giovanni. Anche se poi le ipotesi degli studiosi a questo riguardo sono state davvero di tutti i tipi e soprattutto negli ultimi anni si è detto davvero di tutto. Quando ci confrontiamo col testo sacro, li troviamo tutti e quattro riuniti in un solo contenitore materiale, in un solo libro. Ma nei primi decenni come stavano le cose? Difficile dirlo. Senz'altro alcune comunità avranno avuto qualcuno di questi Vangeli e certamente non altri. A parte il fatto che questi testi che noi chiamavamo Vangeli all'inizio non si chiamavano neanche Vangeli. Per Marco non lo sappiamo. Per Luca il titolo certamente gliel'ha dato alla sua opera, che non era come la presentiamo noi oggi, perché noi oggi parliamo di Vangelo di Luca e di Atti degli Apostoli, scritti da Luca. Ma chi legge la fine del Vangelo e l'inizio di Atti capisce che Luca aveva voluto fare un'opera unitaria. E le intitolazioni che noi abbiamo oggi sono successive e non sono state volute dall'autore. Quindi è tutta una sistemazione dei testi sacri che è avvenuta solo nel corso del secondo secolo, o addirittura ancora agli inizi del terzo, e che non aveva necessariamente, non corrispondeva necessariamente alle intenzioni dei loro autori. Il dato straordinario però è questo, che se noi consideriamo tutte le diversità che in modo sommario ho descritto fino ad adesso, e però prendiamo alcuni dei maggiori esponenti del cristianesimo del secondo secolo, soprattutto della seconda metà del secondo secolo e degli inizi del terzo. In Gallia Ireneo, a Roma l'autore del frammento muratoriano, in Egitto Clemente e poi Origene, e in Africa Tertulliano. Ecco, se noi prendiamo gli scritti di questi personaggi, che sono eminenti figure del loro cristianesimo, quei quattro testi sono stati già tutti recepiti, sono stati già tutti recepiti e tutti gli attribuiscono valore normativo per la fede. E questo è un dato eccezionale. E un altro dato eccezionale riguarda poi, se ne è discusso negli ultimi anni parecchio, anch'io alla Sapienza ho fatto una conferenza su questo riguardo, la stessa scelta di dare a quattro testi composti da quattro autori diversi, anche con impostazioni significativamente diverse, di dare a tutti questi quattro testi, che circolavano ognuno per i fatti suoi, non è come diciamo li vediamo noi oggi raccolti, lo stesso titolo, Evangelion. Anche questa è stata una rivoluzione. Perché? Perché nel mondo antico, per come erano fatti i libri, l'etichetta dove c'era scritto il nome era la prima cosa a partire, ad andare perduta. E che succedeva quando andava perduta? Che ognuno ci metteva il titolo che voleva al prodotto scritto. E invece qui assistiamo a una uniformità talmente sorprendente che. Cosa ne deduciamo, anche se le fonti non le abbiamo? Ne deduciamo che c'è stata un'organizzazione fittissima per concentrarsi su questo punto. Cioè, al di là di tutte le diversità che noi abbiamo descritto, la cosa stupefacente del cristianesimo del secondo secolo è avere fissato dei punti fondamentali, cioè questi quattro testi che devono essere considerati normativi per tutti, e in più. Diciamo, di aver dato anche, diciamo così, una presentazione esteriore con quel titolo, che deve dare già un'indicazione molto chiara nell'interpretazione di questi testi. E poi l'altra cosa eccezionale è comunque che al di là delle differenze, il cristianesimo, almeno nelle forme scritte che decide di assumere nel secondo secolo, nasce al plurale. Nasce al plurale perché se noi confrontiamo i Vangeli anche su un solo dato, la morte di Gesù, anche lì abbiamo delle rappresentazioni diverse della morte del Maestro. Però nessuna viene lì, in quel caso, esclusa a danno degli altri, come se quell'esperienza non poteva essere ridotta alla voce di uno, alla testimonianza di uno soltanto. E allora, alla luce delle cose che ho detto, torniamo a Roma. Perché? Perché si riflette su qual è stato il centro che ha permesso questa organizzazione così uniforme in varie aree geografiche del Mediterraneo? È probabile che tali decisioni siano avvenute a Roma. Siano avvenute perché sappiamo che Ireneo di Lione, il vescovo dell'area gallica, a Roma c'era venuto ed era ben conosciuto. C'era venuto anche Tertulliano, quello che ci consta nel terzo secolo ci viene origine. Insomma, i maggiori rappresentanti del cristianesimo, almeno delle anime culturali di questo periodo, vengono a Roma. Abbiamo delle notizie che ci dicono che sia nell'ambito delle controversie liturgiche che abbiamo le prime notizie sull'esistenza di sinodi, di quelli che poi oggi pure chiamiamo concili. Ed è possibile che Roma sia stato proprio il centro cuore di queste decisioni. Quindi la vita della città, dal punto di vista del cristianesimo, se uno la vuole indagare, la può indagare da varie prospettive, prospettiva verticale, cioè vedere come tante anime convivevano lì, ma anche, in un raggio molto più ampio, in senso orizzontale, per vedere come questa città davvero nel secondo secolo davvero è stato centro del mondo cristiano. Se io dovessi indicare una capitale del mondo cristiano nel secondo secolo, quella è sicuramente Roma. Quando è cominciata a strutturarsi questa struttura amministrativa ecclesiastica che poi diventa quella che noi conosciamo? Diciamo così, è stato a un certo punto naturale che si creasse un processo di accomodamento, come l'ha chiamato un grande storico di età tarda antica, ma anche bizantina, Gilbert Dracon, cioè un processo di accomodamento di tutta un sistema di organizzazione ecclesiastica su un precedente sistema di amministrazione romana, per cui il vescovo che si insediava nella città capoluogo civile diventava automaticamente presidente di tutta una serie di, diciamo, comunità rette da altrettanti vescovi che gravitavano in quella zona amministrativa. Però già agli inizi del IV secolo, al Concilio di Nicea, a un certo punto, dinanzi al conflitto, no, della crisi ariana che aveva coinvolto praticamente tantissimo l'Oriente, ma anche almeno in parte l'Occidente, tra le questioni che sono state discusse nel 325 al concilio, e una poi ha riguardato anche quali grandi centri riconoscere nel mondo mediterraneo, quali grandi sedi a cui fare appello in caso di necessità, in caso di conflitto. Perché dico questo? Perché una cosa che si è pure manifestata chiaramente nei primi secoli del cristianesimo, che si creavano questi concili, si prendeva una decisione, però poi spesso le parti continuavano a rimanere in conflitto, oppure venivano fatti altri concili dove un'altra parte veniva la parte condannata veniva riabilitata. E in quel caso era naturale, diciamo, si imponeva la necessità di trovare un'ultima istanza, non più superabile, per dirimere la questione. Molte volte questo è stato Roma. Altro genere di problemi, cioè la necessità di assicurare un'organizzazione ben più capillare, cioè prima di arrivare all'ultima istanza a Roma. Come tante regioni possono organizzarsi in gruppi più piccoli? E noi tutta questa fase di sviluppo la vediamo bene nei canoni che vengono approvati nei concili successivi fino al 451 a.C. Ma se noi andiamo a leggere i canoni di questo periodo, la parola esatta per indicare la sede vescovile molte volte è eparchia. Il termine diocesi invece viene applicato a delle macro aree molto più ampie, al cui interno convivevano appunto varie realtà rette da vari vescovi, tutti di una stessa regione. Cosa voglio dire con questo? Che il lessico che noi utilizziamo oggi per indicare un'area ecclesiastica retta da un unico vescovo, la diocesi non è quello che noi andiamo a trovare nei canoni. Noi oggi abbiamo la diocesi come la intendiamo noi, poi una circoscrizione Ecclesiastica, ecclesiastica certo. che compone più diocesi attuali, poi troviamo delle regioni ecclesiastiche, il che vuol dire qualcosa di ancora più grande, e poi, diciamo, nel nostro caso noi abbiamo un'unica realtà cattolica. Nell'antichità i primi gradi gli corrispondono, anche se i nomi vengono utilizzati in forme diverse, però con una grande differenza, che se non altro per ragioni pratiche, Roma era responsabile di un immenso territorio. Altre chiese, in particolare Costantinopoli e Alessandria, che saranno rivali per la leadership nel lato orientale, cercheranno di rivendicare il primato supremo su tutte queste altre, diciamo, circoscrizioni ecclesiastiche che componevano tutta quanta l'area.